Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. You were my son, you were my earth. Io mi prego, perché ridi? Io non devi ridere, devi dire io resto, proprio te prego. Chi è? Ringrazio i mister, la squadra, i miei compagni. No, profe. Sei un fenomeno. La cura per me, io qua col pane e acqua. Qua col pane e acqua, io qua. Sei più forte. Hai fatto gol da brividi. Il numero uno. Sei sinistro, sei un fenomeno. Il numero uno, ti ricordavo. Otto ore e 50 alla fine del mercato. Mi si spezza il cuore, ma povero Hernanes. Allora, Franco Pietrini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia con Roberto Scaltretti in panchina perché ha rifiutato il trasferimento a Cuori e Denari. Ciao Pardo. Ciao, sì, tra l'altro avevamo una trattativa, sì. Prendevamo anche metà della Rosciani, sì. E in prestito con diritto di riscatto, però saltato tutto. Cantadori mentre fuori siamo rosa. In trattativa col signor Cruciani che pensiamo di annunciare a breve, sì. Siamo ancora 8 ore e 40, sì, ma non siamo riusciti a metterci d'accordo sull'ingaggio e con ogni probabilità salta come Biabiani al Milan. Hai senti, visto? Ma Barisoni niente, in prestito fino alla fine dell'anno? Ti giuro che oggi volevo far debuttare Barisoni perché insomma questa puntata è molto più economia che non calcio. Volevo far venire lui ma non è ancora arrivato. Marta Cagnola? No. Marta Cagnola siamo in trattativa, però si fa a giugno. Ma no dai, su. E cosa vuoi che ti dica? Si fa a giugno. Dai, fingiamo per Marta Cagnola subito, dai, Marta Cagnola subito. Con proprietà, con diritto di riscatto. No, Piantanita è incedibile. Incedibile, sì. Piantanita incedibile. Allunghiamo il contratto con l'adeguamento. 800 24 00 24. Tra poco mettono sul mercato anche noi. Io te lo dico. E, senti, ma povero Hernanes, mi si spezza il cuore. Quel cattivo di Lotito lo vende come una vacca sul mercato del bestiame. In realtà non è così, quel cattivo di Lotito. No, ma dai. Ascolta, non è così, allora. Non è così, anche se in realtà la verità è contenuta, ecco, addirittura è stato l'effetto, è contenuta nelle segrete stanze dei colloqui che ci sono stati, perché in realtà è evidente che Hernanes va a star meglio, no, dal punto di vista economico e insomma, io non dubito di quello che ha detto, no, che alla fine è stato lui a volere il trasferimento, però ci potrebbe essere stato anche, diciamo così, da parte sua un beau geste nei confronti di chi in questo momento è più in difficoltà, che è Lotito, sicuramente dal punto di vista ambientale a Roma, sappiamo che insomma ci sono state contestazioni pesanti e quindi è chiaro che questa dichiarazione di Hernanes potrebbe anche andare in questo senso qui. Sì. Sappiamo che spesso quando un giocatore, soprattutto un giocatore importante come il Profeta, lascia una squadra, c'è sempre un po' il gioco del cerino su chi si prende la responsabilità. Senti, ma secondo te è tutto vero o è una roba da Grande Fratello? Secondo me c'è una convergenza di interessi tra giocatore e Lazio. E poi appunto c'è questo discorso di cercare di uscirne nella maniera più adatta dal punto di vista, dal punto di vista mediatico. Io credo che le lacrime, io ho fatto anche un pezzo ieri sulle lacrime, sì, di Arnato. Io credo che quelle lacrime lì siano lacrime vere, ma uno anche nella vita può avere, non è che per forza è cattivo. Io credo che Arnato sia legato, cioè non c'è per forza una contraddizione tra quelle lacrime e la sua dichiarazione che ha chiesto lui di andare via, perché perché ci sta, no, poi perché dai, pure scusami, quando ma possono donna, essere poi perché... certo, ma poi possono essere anche lacrime di tensione, cioè chiaramente sottoposti a tanto stress, poi sono ragazzi sensibili, la sensibilità, ma su questo ognuno ci, ma sono professionisti, dai, quindi, no, sono dai, giustamente professionisti, ma come giusto che sia, e io condivido, però la componente emotiva ci sta, insomma. Io un po' di calciatori li conosco, non è che sono delle macchine. Bisogna non esagerare, secondo me, nel romanticizzare il calcio, nel teatralizzarlo, nel renderlo letterario, perché molto spesso la componente letteraria del calcio sono soprattutto e soltanto i tifosi. No, ma questo ma è non certo. Bisogna neanche, però, non bisogna neanche cadere nell'errore. Ma non è un peccato mortale, cioè, nel senso, io rispetto molto il professionista che fa una scelta professionale e per denaro, come Hernanes prenderà 2,8 milioni. A proposito, è arrivato a Milano in treno, mi dicono, per le visite mediche. 2,8 milioni a salire fino al 2018, fino a 3,4 milioni. Ovviamente di più di quanto prendeva la Lazio. Gioca in una squadra che teoricamente vuole diventare competitiva, dunque è una scelta professionalmente ineccepibile. C'è Franco che scrive: sono contento che Toier abbia sentito, senti questa Pierre, abbia smentito il sistema mediatico che lo aveva pregiudizialmente deriso. Con lui l'Inter torna dove le compete. Poi c'è anche Dario che scrive: ma Profeta piangeva di gioia per i soldi in più che gli dà l'Inter o per qualcosa di simile. 800... Poi, devo dire, molta comicità, sì, sulla rete, su Twitter, c'erano anche quelli, non me ne vogliono, i tifosi interisti che dicevano piange perché va all'Inter, ovviamente, e c'erano quegli altri che dicevano piange di gioia perché va all'Inter. Insomma, c'è stato un po' spazio per tutto, però queste lacrime sono state un fatto che ci ha dato a pensare, che comunque abbiamo interpretato, per cui insomma sono... Complimenti al cameraman, probabilmente con un telefonino, che ha girato quelle immagini, perché ha regalato a tutti comunque un ritratto vero. E in quel momento Hernanes era assolutamente sincero, e penso che i tifosi della Lazio quelle lacrime comunque le avranno apprezzate, al di là delle sue dichiarazioni. È ovvio che un giocatore se non se ne vuole andare non se ne va, ma chiaro, e viceversa, se vuole andare via niente lo trattiene. A proposito di tweet di giocatori trattenuti contro voglia per forza, mentre c'è Gene Gnocchi che dice quelle lacrime è il primo schema che Hernanes ha imparato da Mazzarri, legge oggi in Gazzetta dello Sport, ma non è di tutti, però una battuta che mi diceva prima Franco Piantanide è stata, insomma, ieri è stata la prima battuta a circolare. C'è un tweet invece molto divertente di Guarin, anche perché tutti dicono che alle 22:58 verrà annunciato lo scambio Vucinic-Guarin, ma pensa un po'. Poi chiediamo informazioni, chiediamo lumi, Pierluigi. 800240024, cosa ne pensate voi di questo mercato, delle lacrime, dello scambio Vucinic-Guarin, di Osvaldo che è andato alla Juventus, visite mediche questa mattina con la bombetta, non so se l'avete visto in televisione, un look estremo, molto figo, piace molto, moltissimo a Marta Cagnola e non solo, Osvaldo. Si crea chiaramente un overbooking nel ruolo delle punte per la Juventus, e questo è un altro tema. Ce n'è un altro che poi tratteremo, ed è, sapete che arbitrerà Juventus-Inter di domenica sera? Rocchi, che agli interisti non piace tantissimo. Tutti convocati. Io ho un sacco di sms, 349-238-6666, ma naturalmente tra poco, come ogni giorno, cominciamo anche a parlare con gli ascoltatori, con i nostri amici dell'800240024. Diciamo un sacco di messaggi. Vic, speriamo che Hernanes non sia Zarate 2 la vendetta. C'è Fede Alessandria che sottolinea che l'Inter aveva bisogno di un attaccante di movimento, ma l'Inter, caro Federico, ha bisogno di talmente tanti giocatori che Hernanes è perfetto per la ricostruzione, è perfetto per quel centrocampo senza qualità. Massimo, resta il fatto che la mia Lazio con lo titolo resta una squadra senza futuro. Luca da Forlì, ma chi se ne frega se Hernanes piange, quanto dobbiamo tirarla lunga, avrei pianto anch'io per pararmi il culo davanti ai tifosi laziali che non sono proprio delle educande. Pierluigi, sei tornato? Problemi con le linee, tanto Scaltritti ha firmato il prolungamento, quindi è tornato in regia. Vabbè, castigo sì, punitivo è finito. Senti, possiamo annunciarlo e fare ma... con la maglia. No, ma insomma, ripeto, va bene così, va bene così. Era un momento di verità quello lì di Hernanes. Non penso che fosse una messa in scena. È stato un momento di emozione di un giocatore che dopo 4 anni lascia una squadra. E poi è chiaro che se la lascia, lascia anche nel calcio di oggi con comunque con il suo ok. Nell'epoca dei calciatori, ostaggio delle società, è finita ormai da parecchi anni. Senti, invece Franco D'Amanto va tra poco. Juventus e Inter, tutti dicono che questo scambio Vucinic-Guarin si farà. Allora, tweet di questa mattina di Guarin, leggo la versione originale perché è più divertente rispetto a quella poi tradotta dall'italo spagnolo all'italiano. Quello originale è questo: società Inter, come siete voi che mi avete mezzo in mercato senza io chiedere a nessuno, che voleva andare via perché all'Inter stavo tranquillo e felice. Adesso vi chiedo chiarezza e rispetto con me, con tutti i tifosi e con mio procuratore. Da chiarezza procuratore scritto in maiuscolo, per la cronaca. A voi tifosi solo o parole di ringraziamento perché mi avete dimostrato il affetto e la stima. Se devo andare, sarà se non devo andare perché non si capisce niente. Allora, se non devo andare, sempre saranno nel mio cuore. Oppure, se devo andare via, sempre saranno nel mio cuore perché all'Inter ho realizzato un sogno. E se devo rimanere la mia forza. Aspetta, all'Inter, sì, Inter maiuscolo con la N finale. E se devo rimanere, la mia forza, la mia responsabilità e il mio cuore saranno ancora di più indirizzato a far vincere l'Inter. Questo è il tweet per la traduzione. Farine, Inter, mi confermi che c'è la N finale? N finale scritto in maiuscolo. Nel mio cuore, no, perché all'Inter ho senza H realizzato un sogno. Va bene. Il concetto è chiarissimo. Diciamo che per faccio la traduzione? Che è... Vuoi che faccio la traduzione dal Guarin all'italiano? Chieda alla società chiarezza e rispetto con me, con i tifosi e col mio procuratore. Siete voi che mi avete messo sul mercato senza che io lo chiedessi, perché qui ero tranquillo e felice. Ringrazio i tifosi per l'affetto e la stima che mi hanno dimostrato. E se me ne dovrò andare, saranno sempre nel mio cuore. Se rimarrò, metterò forza, responsabilità e cuore per far vincere l'Inter. Questa è la traduzione. Guarda, io, come ti dicevo qualche giorno fa, una persona molto vicina a Guarin mi ha detto che quando c'è stato tutto il casino della settimana scorsa, lui certamente non è stato felice di come è andata la cosa, però come positiva c'era che forse per la prima volta da parecchio tempo ha sentito l'affetto dei tifosi e quanto è importante, quanto è centrale nel progetto dell'Inter. Ma chi, Guarin? Ma no, ma l'affetto dei tifosi era indotto dal fatto che non lo volevano dare alla Juventus, non era un affetto per lui. Sta di fatto che questa cosa qui c'è stata. E quindi io penso che alla fine lo scambio si farà. L'ho fissato ieri pomeriggio, appena Hernanes e Osvaldo sono diventati un pochino più chiari, ho detto eccola qua, hanno preparato giustamente il terreno per questa operazione che rimane nei desideri tecnici dei due allenatori e che rimane nei desideri di vita professionali dei due calciatori. Per allora cui... facciamo così, io mi immagino Luca Marchetti in questo momento con 8 telefoni trafelato e con tutto spettinato. Ciao Luca. Ma ce ne risponde Marchetti, altrimenti che vediamo il saluto. Marchetti, no, di telefono ne ho uno all'avviso di chiamata, che naturalmente ci ho partito. Senti, hai voluto la bicicletta a mo' pedali, dice qualcosa, qualche trattativa importante, è stata? Allora, intanto ti dico che è saltata definitivamente Biagini Milan, è finito da pochissimo l'incontro fra il Milan e il Parma, fra Ghirardi e Galliani, il Milan avrebbe preso il giocatore in prestito, il Parma non lo dà, a questo punto se lo tiene a meno che i cinesi del Guangzhou non tornino alla carica. Senti, dimmi un affare fatto, piuttosto inventano, ma dillo. Affare fatto, in anteprima. Grandi Hernanes sta arrivando a Milano. In treno, l'ho già detto prima, dimmene una nuova. Una che non sai. Una che non so, beh certo. Piuttosto no, inventala, Io la inventiamo, così, sì. Fatta così. Vucinic va all'Inter per Guarin alla Juventus, inventa questa. No, questa te la smentisco. Me la smentisci? Sì, più no che sì, Luca. Vucinic-Guarin secondo me non si fa. Ah. Attenzione. è una, no, è una notizia negativa, però tu me ne hai chiesta una positiva. Perché lui c'è a Roma? Perché lui c'è a Roma? Allora, la notizia positiva è che Belfodile va a Livorno. Davvero? Ah. O stai inventando? No, no, è vero. Ma va. Belfodile a Livorno. Però lo paga l'Inter, naturalmente. Cioè va in prestito con lo stipendio pagato dall'Inter. Va in prestito, credo che Livorno non possa permettersi tutto, però gli ottimi rapporti fra l'Inter e Livorno. Ci ha provato anche il Catania stamattina, aveva l'accordo sia con l'Inter che con il Parma, alla fine invece la spuntata è Livorno. Senti, ma senti, no, invece mi dici perché Vucevic Guarin non si fa, secondo te? Perché non si poteva fare, non lo hanno rimesso in piedi, nonostante le grandi pressioni, come dicevi tu, anche da parte dei giocatori, dell'entourage, non ci sono i presupposti. Peraltro, anche se Hernanes è a Milano, io fino a che a questo punto, in questo mercato, non arrivano le firme... Aspetteresti, eh? Sì, sì, sì. Senti, ma perché ho imparato a non fidarmi durante questo gennaio. Certo, certo. Che succede però degli attaccanti della Juve? Nel senso che la Juve doveva smaltire lì. Questo è un bel problema secondo me per la Juve se almeno uno dei due non va via. Vucic ieri ha dichiarato che rimane, e l'ha detto lui. E già questo secondo me è un segnale importante, il fatto che lo scambio non si faccia, che sennò non dici niente un giorno alla fine del mercato. Però scusami, mi risulta tu sei il re del mercato, io sono così uno sì, il principe, il reggente. No, del mercato proprio, insomma, anche il reggente. No, Vucinic, secondo me questa cosa l'ha detta perché lui ha rifiutato delle soluzioni all'estero perché vuole andare all'Inter, o no? No, questo sicuramente sì, però la vita da separato in casa non è facile. Secondo me Inter e Juve non si vedono oggi e non chiudono la trattativa, che peraltro a un certo momento sembrava potesse riaprirsi, perché sai, avevamo sempre detto che c'era bisogno della pace fra Toir e Agnelli. In realtà il mercato, anche se non fai pace, lo fai lo stesso. Certo. Però non credo che ci siano proprio i presupposti. L'Inter si è arroccata sulle proprie posizioni, spinta dal tumulto popolare, e rimane così. Per Guarin secondo me rimane aperta soltanto l'ipotesi estero. Peraltro, da quello che mi risulta a me, il fatto che Vucinic rimanga a Torino a Conte non dispiace. Sa che deve recuperare psicologicamente il ragazzo, che ormai aveva mentalizzato il fatto di dover partire, però Vucinic è un giocatore che piace molto a Conte, anzi si era anche un po' arrabbiato per la gestione della situazione. Chiaramente non era colpa sicuramente in questo frangente della Juventus, che però insomma ha impedito a Conte di poter utilizzare Vucinic anche nella prossima partita. Che e gli altri attaccanti? Quagliarella secondo me. Quagliarella alla Lazio è possibile? Secondo me è possibile tutto alla fine per Quagliarella. Quagliarella è un attaccante che può andare dovunque. Io, però è una mia idea, non è assolutamente verificata con nessuno, è che l'Inter potrebbe addirittura pensarci a Quagliarella. E allora siamo al punto di prima. È un attaccante in uscita. Siamo al punto di prima, a fare con la Juve non si fanno. Milan che cercava Biabiani, voleva un attaccante esterno. Non ho capito, scusa? Milan che cercava Biabiani adesso voleva un attaccante esterno, ne prenderà uno, se non è Biabiani un altro? No. Finita la operazione con il Parma la facevano perché c'erano buoni rapporti, al Parma serve, avrebbe fatto comodo cedere un giocatore anche per questione di bilancio, in prestito infatti non lo dà. Luca, io ti ringrazio e ti do una notizia invece, che è questa, te la do io. Allora, c'è Fulvio, che è un ascoltatore, che scrive: mi risulta che Pardo abbia una storia con Ilaria D'Amico, fonte sicura. Questa te la do io. Magari, Ilaria, magari. Fonte sicura, scrive Fulvio, quindi... Sarà Fulvio D'Amico questo, ragazzo. Non lo so. Fulvio, fatti vivo, batti un colpo, spiegaci questa storia, che io sono curioso. È stato bello crederci, Fulvio, grazie. Luca, ti incontrerò tra poco. Ciao Luca, grazie. Ciao. Franco D'Amato, ma lei stia lì, per favore, stia lì, non si muova. Tutti convocati. Senta, ma è vero che vuole lasciare la vecchia signora? Ma assolutamente no, ma assolutamente. Che voglio dire, siete così una bella coppia, eh? No. Questi sono dei chiacchiericci che si sono voci di gossip, quindi. Io come ho sempre detto, credo che le situazioni private vadano risolte, vadano affrontate in famiglia con la massima serenità. Sono cose sue. E con la massima trasparenza. Ma cosa vi interessa? Sono cose sue. Tapiro d'oro ieri sera Buffon, dunque prende quota questa voce relativa a Pardo, L'amico risulta libera, vabbè. Quanto sei scemo, Genta. Invece Piantanida, che è fuori classe, il vero numero 10 qui della compagnia, sì, mi faceva riflettere sul fatto che quell'idea di Luca Marchetti, che in effetti ci sta, no? Di Guagliarella all'Inter, tipo l'Inter comunque cerca un attaccante, ci potrebbe essere un problema legato a Mazzarri, che nell'anno di Napoli non c'è stato un rapporto eccezionale, almeno così risulta. No, vabbè, no, l'ha di fatto qualcosa venduto per poi prendere Cavani, non gli è andata malissimo. No, però insomma Quagliarella non è rimasto in ottimi rapporti, secondo me, con l'ambiente Napoli, l'allenatore di Costa della Mazzarri, insomma, ci sta come ragionamento. Sì, sì, sì, no, figurati, Giorgio De Luca, che ben conosci, ultra del Napoli, è arrivato subito qui con i fogli. Mazzarri, Quagliarella è stata una sua scelta di vita, non... c'erano problemi di spogliatoio, al suo posto Cavani, ovviamente parole di repertorio di quando Mazzarri al Napoli cedette, appunto. Tonico De Luca, eh? Beh, tonico. Ragazzi, potremmo prenderlo, eh? Non è che già ce l'abbiamo in realtà la domenica, quindi... Sì, ce l'abbiamo la domenica, potremmo allungargli il contratto per la settimana, adesso vediamo quante ore mancano. Allora, Cuore Denari come ha messa? Perché Cuore Denari ci ha chiamato, eh? Sì? Ci ha chiamato, sì, poi voleva fare uno scambio, non ho capito, poi sentiti dopo. Quanto mancano, sì, 8 ore? 8 ore 24 minuti, forse ce la facciamo a chiudere qualcosa. Facciamo Minoli stasera, dai, Minoli alle 23:20. Sì, 23:20, siamo fuori tempo, dobbiamo lanciare il contratto oltre la porta sperando che ci sia qualcuno a prenderlo. Franco Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Spero di non dover pagare io la telefonata, perché mi costerebbe cara. No, mi perdoni l'attesa, ma non pagherei, non si preoccupi. Bene, questo mi fa piacere. Bene. Parlo sempre volentieri con voi, perché oltre che di sport parlate anche di economia. Sì. E d'altronde Radio 24 dice tutto. Volevo chiederle una cosa. Lei saprà senz'altro che in questi giorni si è firmato da parte della Fiat e della Chrysler, sì, un accordo per delocalizzare, diciamo così, la mente pensante sia dell'una che dell'altra. Mm. Secondo alcuni giornali stranieri, austriaci, tedeschi in particolare, questo farebbe da apripista anche nello sport a una delocalizzazione delle attività sportive, della finanziaria Exor, e in modo particolare fa riferimento sia alla Juventus che alla Ferrari. Ora mi punge vaghezza, diceva un mio amico, che in questi giorni il signor Andrea Agnelli si sta muovendo in un certo modo, sì, e vedendo che la faccio breve, vedendo che il campionato italiano non è più molto remunerativo, avendo già il passepartout del Monaco, chi mi dice che un domani la Juventus non debba più litigare con l'Inter, con il Milan, e quindi non si chiamerà più Juventus, come la chiamano questi, sì, ma dovrà fare affari con il Monaco, con il Paris Saint-Germain. Beh, ma gli affari già li fa, Già li fa, e poi se vogliamo dire la gioca adesso l'Europa League, no, mi sembra onestamente una ricostruzione, cioè dal punto di vista economico è chiaro che la delocalizzazione, l'internazionalizzazione di molte aziende è un dato importantissimo, però qui parliamo di un business che ha delle sue specificità culturali, tradizionali. Se la Juventus non giocasse il campionato italiano, facciamo fantacalcio, giocasse il campionato francese, ma non si può fare, ma dai, a parte che non si può fare, ma dico, sì, non sarebbe più la Juventus, cioè il ruolo, il brand di questa società chiaramente sarebbe diverso, perché in Francia gliene importa molto meno. No, quindi, ma poi se vogliamo parlare di Superlega è un'altra cosa, coinvolge può essere anche un'idea su cui discutere seriamente, perché ormai ci sono quelle 2-3 squadre per ogni campionato che sono irraggiungibili, che sono sovradimensionate rispetto alla concorrenza. Se vogliamo parlare di Superlega, di questo progetto della Spectre del calcio, di cui si vocifera da anni nelle segrete stanze, allora è un conto. Ma se vogliamo dire Juventus che va a giocare al campionato inglese, come era stato detto anni e anni fa, mi sembra dallo stesso Agnelli, questa minaccia era stata fatta, cosa che non si può fare, però questa a me pare davvero fantascienza. Allora mi informano che Quagliarella avrebbe lasciato l'allenamento della Juventus, dicono per un attacco febbrile, però insomma, a 8 ore e 21 minuti vale tutto, a meno Quagliarella deve giocare, vale, dai, Quagliarella deve giocare, non è che c'è molto a discutere. Nella Juve non giocherà, né ora né dopo. Io stravedo per Pagliarella, e secondo me è un giocatore che non ha avuto un grandissimo feeling con Conte, il quale, va detto, ha delle alternative eccezionali. Come fai a discutere Conte e la gerarchia in questo momento con te? Come fai a tenerli fuori? Quindi, ma è chiaro, ma poi funziona, no, perché dovresti cambiare tutto. Però sai, il Pagliarella sì, è un giocatore che può partire, che se no partirà, è evidente, già in estate era stato vicinissimo al trasferimento. Penso che se vuole avere ancora il sogno del mondiale, che secondo me per qualità tecniche potrebbe ancora conquistare, insomma è il momento di partire adesso, perché la Juve E il problema è che comunque ha un elevato valore di mercato, e sappiamo che su questo non si transige per la storia delle plusvalenze, per questioni di bilancio, e guadagna molti soldi, dunque non è facilissimo, no. Secondo me mi ha sorpreso abbastanza Belfodil al Livorno, come ci ha annunciato prima Luca Marchetti, dandocelo per ufficiale. Belfodil che doveva andare in Inghilterra, doveva andare di qua, doveva andare di là, però è un giocatore che l'Inter ha strapagato e che comunque becca molti soldi. Ma lì l'errore sta, l'abbiamo ripetuto spesso, l'errore sta veramente all'origine in quella trattativa lì, l'idea di prenderlo in estate, questo è il punto fondamentale, insomma. Cioè, l'errore è stato prendere, su questo non ci piove, perché si è dimostrato un brocco, comunque non un giocatore da Inter. No, si è dimostrato non pronto, poi magari tra tre anni, cinque anni. Quanti anni ha? Non ricordo, 21, 22, cioè non, basta parlare di giovani giocatori, cioè a quell'età o sei bravo o non sei bravo, secondo me, poi puoi avere margine di crescita, però o sei un giocatore di livello o non lo sei più, perché basta dire che questi 22, 23 anni sono giovani. Piero Ferrara, buongiorno. Piero, ciao, buongiorno. No, io volevo tornare sull'eventuale scambio Vucinic-Guarin, se poi mi dite che Quagliarella ha lasciato lo spogliatoio del campo di Torino, credo che alla fine non si farà, però a livello tattico secondo me andava bene a entrambe le squadre. Sì, ma anche secondo me. Vucinic, Palacio e Hernanes, in questo caso qua mi vengono in mente, mi riviene in mente Lamsic, Cavani e Lavezzi. Sì. E invece Guarin, che nessuno, secondo me, io non ho mai sentito nessuno che lo diceva, ma con la voglia che ha Conte di ritornare magari a giocare a 4 con Lichtsteiner terzino, cioè Guarin secondo me è largo a destra a fare un po' quello che faceva un po' Pepe, piuttosto che invece vederlo come sostituto, non so come la pensa Pardo, ora glielo chiedo, però non mi pare che Vucinic, che Guarin abbia il passo per giocare in quel ruolo, è un giocatore un po' diverso. Detto questo, lei ha ragione su molti punti, cioè era comunque qualcosa che conveniva alla Juventus per trovare un'alternativa tattica a centrocampo, per allungare le rotazioni, per guardare al futuro e così via. Conveniva all'Inter, che ha bisogno tuttora di un giocatore come Vucinic, che era in cima alla lista di Mazzarri. Moratti dice, l'ha detto l'altro giorno, che era congruo dal punto di vista economico, e però non si è fatto. E quindi non si è fatto perché? Per le ragioni che conosciamo. Per le ragioni politico-simboliche. Politico-simboliche che mi portano a dubitare di una possibile trattativa, anche Quagliarella a Milano, Guarina. Cioè, il discorso però, è che con la Juventus non si fanno affari, non si fanno affari. Che sia Quagliarella o Vucinic. Ma visto che sta arrivando a Milano, e come diceva Marchetti, bisogna ancora aspettare forse qualche ora. Nel momento nel quale Hernanes firma, probabilmente anche tifo nerazzurro si placa, meno. Dici? Insomma, nel momento nel quale tu alla fine esci da questo mercato con Hernanes, diciamo Vucinic, o comunque un altro attaccante importante, e D'Ambrosio, hai perso Guarin. Lì il problema è che ma i tifosi dell'Inter, se avessero perso Guarin, Pier, non si sarebbero buttati per terra, no? Strappati i capelli, non l'hanno mai amato fino in fondo come giocatore, non era nel cuore della curva. Non si sarebbero, tanto che anche loro non hanno detto va bene, lo vendiamo a chiunque per dei giusti soldi, ma non alla Juventus. Il problema è non fare l'affare con la Juventus, quindi io non credo che con lo zuccherino Hernanes questo affare, questa trattativa per modo di vedere perversa, si possa fare. Sì, dimmi. C'è un intreccio di situazioni, c'è un aspetto politico simbolico che abbiamo ribadito e che è quello fondamentale che ha fatto saltare la trattativa, ma c'è anche una realtà tecnica, c'è uno scarso gradimento nei confronti dei dirigenti nerazzurri da parte di buona parte del tipo interista, certo. E c'è anche molto questo, per cui se tu poi ti presenti con Hernanes, ti presenti comunque con D'Ambrosio, a questo punto lo scambio secondo me è diverso, insomma. Poi l'aspetto politico rimane, che Inter e Juve non sono alleate ma sono rivali, e tra l'altro curiosamente si ritroveranno in campo fra un settore questo è enorme ed è un elemento che non cambia, però insomma mi pare che il clima possa essere cambiato. Devo dire che anche l'ascesa in campo di Toir fisicamente un valore ce l'ha avuto, no? Poi sai, il tifoso vuole anche vedere certe cose simboliche, sì. Cioè il fatto che sia saltata la trattativa in quelle ore per la sollevazione di piazza sui social network è stato qualcosa di importante, di riconoscimento. Poi c'è il famoso discorso del conguaglio, cioè secondo me oggi non è così impossibile come lo era dopo quella protesta. Detto questo, io mi fido di Luca Marchetti che ci dice che la dichiarazione di Vucinic di ieri è una dichiarazione veritiera, che lui evidentemente potrebbe decidere alla fine di giocarsela lì. A me risulta che lui volesse a tutti i costi venire a Milano. Sì, sì. Però magari è un dato di fatto, mi sembra ormai a distanza di giorni ormai un dato di fatto. 10 minuti ancora, Piero, ci sei? Sì. Bene, Ivan da Messina, Antonio da Napoli, subito dopo il traffico, abbiamo altre cose da farvi ascoltare. E poi c'è questa storia di Rocchi che arbitrerà il derby d'Italia di domenica sera. Tutti convocati. Fate i bravi, che poi parliamo anche di basket dopo il giornale radio, naturalmente ci sarà Dan Peterson come sempre, eccetera eccetera. Però siamo su voglio darvi uno scenario anche visivo di quello che sta succedendo. Allora, Quagliarella che lascia l'allenamento della Juventus ufficialmente per un attacco influenzale. Se l'influenza c'era, cioè o gli è venuto in campo oppure c'era anche prima, comunque lascia il campo. Mentre c'è Toir in questi minuti ad Appiano Gentile, questo per darvi uno scenario anche visivo di ciò che sta succedendo a 8 ore e 12 minuti dalla conclusione del mercato. Prima di Ivan e Antonio, allora, altro argomento: Rocchi designato per Juventus-Inter domenica sera. Guarda, mi piacerebbe molto parlare con Cesari, Pier, magari lo facciamo lunedì. Però intanto sai che Rocchi non è esattamente in cima alla lista dei preferiti dell'Inter, a partire da quell'Inter-Napoli 0-3 con Obi e Ranieri espulsi eccetera eccetera. Poi è stato fatto notare la cifra statistica per cui 7 volte in 16 partite in cui Rocchi ha arbitrato l'Inter i nerazzurri hanno chiuso la partita in inferiorità numerica. Però ci sono sempre parole di repertorio, questa volta di Moratti, dopo quell'Inter-Napoli. Ecco, sei deluso per il... Arrabbiato? Beh, sono arrabbiato. Ecco, sei deluso per il livello dell'arbitraggio, perché così scarso, testardamente scarso, cioè nel senso che è durato per 90 minuti questa sua scarsezza. Devo dire anche con l'allenatore si è comportato molto male, non ha avuto nemmeno il coraggio di mandarlo fuori nel momento che era in campo, ma gliel'ha mandato a dire. E quindi io credo che proprio fare tanti sforzi per trovarsi poi un personaggio che proprio non è all'altezza del suo ruolo è una cosa che dà fastidio, è un danno grave alla società, e spero che facciano qualche cosa o di non ritrovarmelo più di fronte, perché molto sinceramente non fa nessun piacere ed è una persona che mi ha danneggiato e ci ha danneggiato tantissimo. 2011, la data di queste parole dopo Inter-Napoli 0-3. E invece Rocchi torna, ma è già tornato in realtà ad arbitrare l'Inter dopo oltre un anno però di assenza da quella partita, dopo la quale venne anche sospeso, se non ricordo male. Però cacciatori di streghe già. Chi è che è caduto? Piero è caduto? Vabbè, adesso lo recuperiamo. Cacciatori di streghe già armati, già sul piede sul sentiero di guerra. Ivan, provincia di Messina. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Non da Messina ma da Milano. Ah, ma ha scritto Messina, io chiedo scusa, ma... Vabbè, niente di male. Senta, niente, una cosa. Sì. Ieri sentivo che il derby di Genova verrà rimandato per una fiera di Sant'Agata, sì. Giusto? Sì. Ecco, ma allora l'anno prossimo a Milano, con l'Expo, tutte le partite vengono rimandate. E non lo so, ma lo scopriremo poche ore prima delle partite stesse. Cioè, poche ore prima... ci diranno che la partita che si doveva giocare alle 15 si giocherà il lunedì alle 21, quindi però questo poche ore prima, appena prima. Dura solo il fine settimana, sabato e domenica, ma dura tutta la settimana, quindi maggio e poi da settembre rimandano tutte le partite. È sì. Una cosa assurda, allucinante. Sì. O no? Ma c'è l'ipotesi di giocarle a mezzanotte con un rave a seguire. Però bene, lo scopriremo solo appunto vivendo. Solo vivendo e soprattutto poche ore prima dell'inizio della partita. Quindi non intanto le metteranno in cartellone normalmente alle 15, poi il giorno prima ci diranno: aspetta un attimo, però, perché c'è l'Expo. Fiera di Sant'Agata è naturalmente non si è saputo fino a pochi minuti fa che ci sarebbe stata, e quindi la decisione non si poteva prendere prima. Ovviamente stiamo scherzando, resta il fatto della pessima figura che è stata fatta con la gestione di questa partita. Sei tornato, Pier? Sì, tra l'altro dovevi andarla a raccontare. Sì, sto rosicando molto, come diceva Roma, perché io sono pazzo per il derby di Genova, quindi certo, era veramente una tu. Partita che mi piaceva da mangiare. Non solo però, tu. amen, ne parleremo a Tiki-Taka, di questo e molto altro. No, io penso che la situazione di Sant'Agata sia molto chiara, molto precisa. La cosa alla fine, al netto di tutto che balza all'attenzione, è l'assoluta mancanza di programmazione. Cioè, sarebbe bastato al momento di anticipi e participi che il Comune di Genova, la Samp avessero detto: guardate che il 2 non si può giocare, il derby sarebbe stato serenamente anticipato al sera o al sabato alle 18 e non avremmo avuto questa clamorosa buffonata. Poi, per carità, io credo che questa cosa sia stata cavalcata anche da una parte di tifoseria per sì, dire questo, no al calcio moderno. Questo sì, però Pier, quello che voglio dire io è che in linea di principio è assurdo il fatto che a un pugno di ore dall'inizio della partita ancora non ci sia chiarezza sulla collocazione temporale. Cioè, allora, quelli che vanno allo stadio sono lì col biglietto in mano e gli dici: boh, quando giochiamo? Boh, non lo so ancora. Tra quanto si dovrebbe giocare? Ma tu pensa a tutti i genovesi, per esempio, che non vivono a Genova. Ma certo, ma un sacco di motivi ci possono essere. Rosso-blu che lavora a Milano, sono piccoli dettagli che a questo punto dovrà inventarsi un modo per andare alle 6 via dal lavoro, alle 5 e mezza, non lo so. Io credo che non è una soluzione ideale neanche questa, ci mancherebbe altro. Va bene così. Era una cosa che con un minimo di programmazione poteva essere evitata. Avrebbero fatto Milan-Torino magari alle 12.30 per la gioia di tutti i giapponesi che amano Honda, e Genoa-Samp l'avremmo vissuta sabato sera. Ma tu lo chiami Honda o Honda? Perché a me Honda fa molto ridere. Ho parlato con circa 64 giornalisti giapponesi il giorno di Sassuolo-Milan, un giorno esattamente fortunato per il Milan, e la cosa è Honda. Però senza accento, Honda. Però la cosa importante è aspirare l'H, mi hanno detto. Se aspiri l'H, sei uno di loro. Uno che ce l'ha fatta. Se non aspiri l'H. No, però ti prego, Honda no. Perché Honda fa schifo. Ma sai, una parola di due lettere, mentre Nagatomo. Per dire, no, Nagatomo mi fa schifo uguale. Cioè, non si può dire. Tu dici Nagatomo? No, io dico Nagatomo. Come normale. Io dico Nagatomo per un discorso, diciamo così, di non diventare. Di non fare quello che se la tira, capito? Perché Nagatomo mi sembra forzato, anche se probabilmente un po' di accento ci sarà. Ma sulla parola di due lettere, Honda, scandita, alla fine, se tu scandisci le due sillabe, un po' d'accento c'è per forza, quindi dici Honda, no? Vabbè. Quindi alla fine, secondo me, comunque l'accento non c'è. E di Rocchi cosa mi dici? Aspirate l'H, mi raccomando, amici all'ascolto, aspirate l'H perché così fa figo. Ma e di Rocchi invece, o Rocchi come direbbero in America? Rocchi arbitrare interiore di Juventus. Quello lo chiamo Rocchi, quello non conta come lo chiami, conta come arbitrerà. È chiaro che le pressioni sono enormi. Avete fatto bene a ripescare quel sonoro, perché comunque è cronaca. Sì, ma poi nulla si dimentica, no? Nell'epoca, in quest'epoca qui tutto rimane a disposizione negli archivi. Io credo che Rocchi non potrà essere una partita di anni fa e credo che sia un arbitro in grado di poterla far bene. Poi non lo so, a me era piaciuto molto Rizzoli a Juve Roma, che era l'altro snodo cruciale di questi inizi 2014. Era piaciuto molto, ma insomma, una logica di rotazione che ci sta. Gli arbitri sbagliano, il problema degli arbitri è che non parlando e vivendo in questa specie di situazione un po' da casta che non riconosce gli errori, sono mediaticamente sempre quelli questo è evidente, sono sempre in croce anche loro malgrado. Antonio da Napoli, la prego, venga con me dopo il giornale radio, mentre saluto Pardo con questo messaggio: l'incertezza sul derby di Genova fa il paio con quella sull'Imu. Ciao Pier. ciao. Meglio il derby però 100 volte. convocati. 800240024, abbiamo ancora qualche minuto per parlare insieme. Naturalmente parleremo tra poco con coach Dan Peterson. Ieri sera grande partita quella dell'Olimpia Milano, sto guardando con grande attenzione questa Eurolega. Ho visto anche una splendida partita a Madrid tra il Real e il Maccabi Tel Aviv, vinta sul filo di rana dagli spagnoli. Vedo molto equilibrio in questa Eurolega e vedo una Milano che ormai ci crede, cioè crede, sta convincendosi di essere una grande squadra o di essere comunque sulla strada per diventarlo. Luca da Torino, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per avermi convocato e complimenti per la trasmissione. Sai che mio amico Piantarida mi faceva notare, non senza malizia, che Mazzarri e Quagliarella ora hanno lo stesso procuratore. Non so se volevi parlare di questo, però c'è Bozzo che da anni procuratore di Quagliarella, da un anno e mezzo è anche procuratore di Mazzarri, quindi si farebbe presto anche a fare la pace, se vogliamo essere maliziosi. Dimmi. Non ero a conoscenza. Se volete i dettagli, io sono fuori dal centro sportivo Juve, se vedo una macchina con Quagliarella sopra ti posso fare la... Bravo, facci sapere. Ma senz'altro, no, non sto scherzando, facci sapere, mandaci un tweet, mandaci un messaggio, richiamaci. Fino adesso non c'è, cioè non è uscito, però dicono sia uscito dal campo, quindi siamo in 3 o 4 qua in attesa, però ho visto, seguo la trasmissione, ho detto ma quasi quasi provo a intervenire per vedere se bravo. Può essergli utile. Bravo, hai fatto benissimo, dimmi. Va bene. No, niente, era più era per dirmi per dirmi io ci sono, sono qui, se vediamo Quagliarella che esce ve lo faccio. Era un breve intervento, ecco. Allora, facciamo, tu hai tempo, hai da fare? Aspetti telefonate. No, perché sennò come hai detto? Dico, ho finito di lavorare, quindi ero Allora Luca, allora fai così, fai il nostro corrispondente, ti nomino sul campo. Ecco. Ti faccio firmare il contratto sul campo, tu stai lì e se non mettere giù, poi ci riaggiorniamo tra pochi minuti e mi dici della situazione Quagliarella. Se lo vedi uscire, cioè, urla dalla regia, ti sentono e così diamo questa notizia. Assolutamente. Molto bene. Allora adesso io voglio il coach, ragazzi. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38. This is old 97. Put her in the Spencer on time. Allora abbiamo Luca lì appostato ai cancelli di Vinovo per vedere se esce Quagliarella. È in linea. Rimane lì. Coach Dan Peterson, ciao. Ciao caro amici sportivi, buongiorno a tutti. Stavo dicendo prima che ieri sera meravigliosa partita al Forum, tra l'altro di fronte a oltre 10.000 spettatori in Milano, che batte il Fenerbahce, una delle grandi d'Europa, con il più forte di tutti in panchina, più bravo di tutti, Obradovic, il signore delle Euroleghe, e Milano che gioca una partita secondo me da grande squadra. Sì, Milano da un po' di tempo che sta facendo questo, perché ha giocato una sequenza di partite durissime e l'unica che hanno perso è stata quella del canestro di 23 metri di Planinic lì a Istanbul la settimana scorsa. Quindi loro sono di livello, cioè la marca di fabbrica di una grande squadra è di mantenere un rendimento a livello alto, e loro recentemente stanno facendo proprio questo, perché hanno Parigi in trasferta, sì. Sassari in trasferta, Olympiacos due volte campione d'Europa, 11-0 in Eurolega fino a quella partita, Fenerbahce quasi sbancato, Istanbul con Efes, quindi stanno disputando veramente delle partite strepitose, a dir poco. Sì, ma anche come personalità, e comunque in questa striscia di partite, questa striscia è cominciata con l'arrivo, guarda caso, di Daniel Hackett, che secondo me ha cambiato la squadra, personalità, leadership, fisico, tiro, e poi ha liberato Gerrers, che magari non appoggi la mia idea, la mia visione, però gioca un po' alla Premier, cioè liberato da compiti tattici, lui può fare può prendere il tiro da tre senza guardare il tabellone, segna punti, può dare queste schegge, queste piccole schegge di pazzia. Esatto, tu hai descritto lui perfettamente alla Premier, cioè è un giocatore di impatto, come si dice proprio in gergo qui cestistico italiano, cioè un giocatore che, e poi quando lui è come Massimo Bulleri anche in questo senso, non è esattamente un playmaker, ma la fai far guardia, liberato come dici tu del compito del playmaker, fa anche qualche assist da playmaker, Quindi Gerald, che è stato voluto proprio da Luca Banchi, perché lui vuole giocatore di impatto, giocatore che possono segnare o far gioco, e Gerald adesso sta riempendo veramente ogni desiderio per Luca Banchi, perché veramente quello che voleva lui ce l'ha. Sì, poi mi è piaciuto molto ieri time out nel secondo quarto, e secondo me lì Milano ha cominciato a vincere la partita con Banchi che ha detto: ragazzi, attacchiamoli nei primi 10 secondi. È raro sentire un allenatore che normalmente ti dicono pazienza, calma, cerchiamo il tiro buono. Lui ha detto andiamo dentro subito, perché sì, i primi 10 secondi della loro difesa sono il punto debole. Sì, sì, e lui ovviamente ha la squadra in mano, sta allenando benissimo con loro, perché il marchio di un ottimo allenatore come lui, veramente un grande allenatore, abbiamo visto anche l'anno scorso, è che la squadra faccia progressi durante l'anno. Però hai detto tu benissimo, l'arrivo di Daniel Hacker è stato il tassello mancante, ok, proprio preso lui, leadership fisico, tutto quello che hai detto, ma anche grandissimo difensore, e lui certo, ha veramente fatto collante per tutta la difesa, marcando il playmaker o il giocatore più forte dell'altra squadra. Se tu sei un playmaker dell'altra squadra e hai adesso addosso o David Moss o Daniel Hackett, la vita è dura. È durissima, anche questi hanno muscoli, centimetri e grande cattiveria agonistica. Senti, io non posso salutarti prima di averti chiesto un parere, cioè lo domandano anche gli ascoltatori via SMS, ma l'avrei fatto anch'io, sul Super Bowl. New York City, Denver Broncos, Seattle Seahawks, dimmi chi vince. Well, io spero che vinca Denver, perché voglio vedere Peyton Manning a vincere un altro Super Bowl, e John Elway eccetera, ma temo che vincerà Seattle, perché sono fisici, atletici, e il loro allenatore, che è Pete Carroll, ha una grandissima personalità. Quindi sto facendo un pronostico per Seattle, non indovino mai queste cose. Diciamo per 31-28 Seattle, okay? Perché Seattle ha grandissima difesa, grandissimi difensori indietro, gli ultimi quattro sono veramente gli atleti spaventosi, che non solamente difendono i ricevitori, ma fanno dei placcaggi micidiali. Quindi dico 31-28 per Seattle. Me lo scrivo, coach. Lunedì faccio sentire il tuo pronostico a giochi fatti, e vediamo se ci hai preso. Come sei, amico? Ti voglio bene, grazie, ti abbraccio. Ciao, coach. Ciao. Alessandro, Luca è ancora lì? Luca da Torino? Sì, sono qua. Quagliarella, che combina? Ho visto la macchina andare via, sì, in grande fretta, non ho scorto chi c'era all'interno, ma qua si vocifera che è andato via anche molto velocemente, non so se era lui o meno. Adesso volevo chiedere ai ragazzi che erano qua in bravo, prova a chiedere, fammi sapere, prova a chiedere, prendi informazioni, assumi informazioni, stai lì, stai collegato con noi, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo di trasmissione. Chiedo ai ragazzi che erano qua, chiedi se era Quagliarella quello che è andato via. Ragazzi, il Quaglia che è uscito prima, sì è lui. Allora lui in direzione comunque Milano, perché la tangenziale è molto vicina qua. Ma grande, sei quindi sicuro? È ufficiale, era lui? È sicuro? Sì, ragazzi, mi ha detto che era lui, perché io mi sono girato un attimo, è uscito il cancello e non ho fatto il tempo a vedere se era lui, ecco. Allora i ragazzi sono lì vicini a te? Adesso stavo prova a chiedere cosa ne pensano di questa ipotesi Quagliarella a Milano per Guarin. Senti se insomma secondo loro prova un po' a chiedere. Torno indietro un secondo, questo è live, dico anche per Radio 24, così certo, ci mancherebbe, siamo in diretta, diglielo, siamo in diretta per Radio 24, vai Luca. Ragazzi, siamo in diretta per Radio 24. Ma secondo voi si fa lo scambio Vucinic? Si dice che sono favorevoli. Sono favorevoli? Molto favorevoli. Quindi all'arrivo di Guarin, Quagliarella a Milano per Guarin, quindi in estremo. Quagliarella a Milano e Guarin con noi? Ci sta, anche se comunque... ha detto che gli dispiace, perché comunque in 3 anni ha regalato anche delle gioie importanti e un po' dispiace comunque. Grazie, un po' dispiace. Grazie ragazzi, grazie a te Luca, sei bravissimo. Senti, sei bravissimo. Allora, era Quagliarella quello che è uscito da Vinovo con grande fretta e in direzione, puntando l'auto in direzione Milano. Poi vediamo. Intanto a Milano c'è già Alessandro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma io sarò un po' provenuto dalla storia, però secondo me da quella società lì abbiamo sempre preso fregature, quindi io sono contrario a qualunque scambio con la Juventus. Qualunque scambio, Quagliarella, Vucinic o chiunque sia, abbiamo sempre preso e merite fregature, e purtroppo quando uno prende fregature non può ritornare sull'argomento. No, perché non c'è l'assicurazione, non c'è la casco sugli acquisti. Esattamente, grazie. Grazie a lei. Sì, ma io credo che questo sia così il pensiero dominante tra i tifosi dell'Inter, ed è per questo che io mi domando, ma scusate, ma che senso ha? Che senso avrebbe? Allora, tu vuoi Vucinic, sei disposto a dare Guarin, poi però i tifosi te lo bloccano, e che senso ha aspettare all'ultimo minuto per prendere Quagliarella, che non è esattamente quello che volevi, dando Guarin e quindi facendo di nuovo un affare con la Juventus? Ed è per questo che io, ovviamente sbagliando come sempre, ma anche queste parole verranno tagliate e mandate in onda lunedì a Giochi Fatti, secondo me questo scambio, questo affare tra Inter e Juventus non si fa. Franco Piantanini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti, reintegrato in regia. Ci sentiamo lunedì e vediamo chi ha ragione. Prova ad andare Martinelli, supera di David a campo, Martinelli, ancora Martinelli, tutto solo, come Forrest Gump, oddio si è bloccato il computer, Martinelli supera il portiere in sinistro, Martinelli, gran gol del Verona, con me c'è Matteo Dotto, Matteo. Eccezionale Martinelli, meglio di UEA. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora, ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete, bello, eh?